Jazz & More, ogni domenica mattina alle ore 12 su Radio Active. Questa rubrica sarà dedicata principalmente all'ascolto di brani, esecuzioni ed album interi. L'idea di fondo è quella di lasciar parlare gli artisti stessi con le loro note. Ci saranno pochissimi interventi ed interruzioni, solo jazz.